Non so più come commentare le vostre performance, insomma, non riuscite a metterci un po' di sentimento, un minimo di immedesimazione? Adesso provate questa, che è una scena di svevo, in cui siete due uomini che hanno amato la stessa donna e cercano di evocarla in una seduta spiritica. Insomma, avrete amato una donna nella vostra vita, saprete che cosa vuol dire, provate a metterlo in questa scena! Ragazzi, insomma, stasera vi tocca Italo Svevo. Ora, io a scuola non andavo tanto bene, ma mi ricordo che questo tizio aveva qualcosa a che fare con la senilità. Ma sarà stato un vecchio sciroccato che scriveva sciocchezze divorato dal morbo di Alzheimer. Io sto svevo. Anch'io avrò l'Alzheimer da giovane, ma io, boh. Io, mi sa che sarà? La professoressa... Tipo, saltava nell'antologia, vedeva Svevo e saltava, se vedo gli garbava. Io secondo me non ci siamo arrivati, ha visto? I programmi sono sempre più lunghi, sera asciughi. Io se stasera si recita male, io so perdonato, immagino, perché non l'ho mai visto in vita mia Svevo. Anche perché questo, quando scriveva i romanzi, faceva dei mattoni che per leggerli di Gerzels e pasticche di anfetamina. Ecco, allora siamo di gatto, vai. E sarà per questo che non si conosceva per mattoni. Andiamo giù, allora. Vediamo. Ma che opera è? Non ne ho la più pallida idea. La maestra ce l'ha data, lei saprà. Da dove viene a quel che serve? E sa andare di nulla allora. Io gli leggo, c'è il marito, l'amante, non si sa chi lei, non si sa chi lei, che si fa? Vabbè, giù. Marito o amante? Io fo il marito. Fai il marito, va, un anello mettetelo te. Oh vai, vai. Si comincia. La scena non era male. Bah, si mangia tuttavia. Anche le ore passate saranno per me indimenticabili. Ella non era con noi, ma la speranza di rivederla bastava a dar luce a quella solitudine. Ho mangiato un po' troppo ho mangiato un po' troppo presto e me ne risento. Mi pareva che mangiando presto facevo camminare più celermente il tempo. Ah, come vivi nelle illusioni! Io davvero ti invidio. Illusioni? Sappi che io ho la certezza che essa verrà. E non ti raccontai ancora tutto. Dopo la lettura di quel libro, ieri sera subito, mi misi ad evocarla. Anelavo di rivederla. Le domandai un segno tangibile che essa mi stava accanto. E la pregai: toccami il braccio. Qui, e designai esattamente il polso ove volevo che essa toccasse. Ebbene, dopo pochi istanti di intensa meditazione, ricevetti proprio su quel punto un colpo che per poco non mi fece perdere l'equilibrio. Si sente raccontare ogni giorno di casi di illusioni simili. Illusioni? Ma guarda qui! Sarai caduto, ti sarai fatto male su uno dei tuoi mobili mastodontici. Ma no, ne sono certo! E si limitò a darti quella legnata? Non arrivaste a parlarvi? Noi due siamo amici da tanti anni che voglio essere sincero con te. Io invocavo con tutta tranquillità lo spettro di mia moglie, ma è certo che il mio coraggio era dovuto alla convinzione di fare opera vana. Quando mi giunse quel messaggio anche troppo chiaro che essa sarebbe venuta, vuoi crederlo? Ebbi paura. E non ridere, te ne prego. Scusa, un momento. E tua moglie starebbe tranquilla nella tomba, ma tu la chiami, essa viene e tu hai paura. Che idea si sarà fatta del tuo affetto? Ammettendo anche per un istante che essa fosse stata in procinto di venire, ora offesa non verrà più. Io credo che i morti capiscano tutto. Da viva aveva anch'essa tanta paura degli spettri. Guarda, ricordo perfino che una volta scherzando le dissi che dopo morto sarei venuto a trovarla e che essa divenne subito pallida a quell'idea. Volle che sul serio le promettessi di lasciarla in pace quando fossi morto prima di lei. Dunque, dinanzi a lei non ho avuto da vergognarmi della mia paura. Mi perdonerà. Io credo che se tu mi resti d'accanto io non avrò paura. Pensai a te perché te eri quasi una sorella. Certo, certo. Io la consideravo quale una sorella. Purtroppo non so avere la fede che hai tu. I morti sono morti e danno ancora meno peso a noi di quanto noi lo diamo a loro. Non discutiamo ora che siamo in procinto di provare. Da te non domando altro che serietà. Hai capito bene le istruzioni? Di qui a 10 minuti siederemo ai due canti della stanza. Prenderemo ambedue una posizione comoda come se volessimo dormire e penseremo invece intensamente a lei. Le istruzioni dicono di non dirigerle alcun ordine. No, penseremo, vivremo come se essa fosse qui. Io me la figurerò come se la tenessi qui sul mio cuore. Tu te la figurerai, anche tu te la figurerai tra le mie braccia. Io non l'ho mai vista fra le tue braccia. Ebbene, mi farà il piacere di pensarla così. Non ti fa niente che io me la rappresenti come ero uso di vederla fra noi due quando ci offriva il caffè dopo pranzo? Mi sarebbe più facile di pensare a lei così. No, la prova riuscirà più facilmente evocandola col pensiero ad un istante più serio della sua vita. Qui i casi sono due. O voi due siete due morti viventi o a voi vi serve solo l'esorcista. A me mi sembrava che questa qui fosse abbastanza contenta di tornare e trovarci noi due. Ma che ti devo dire io, poi noi non si sa nulla, non si sa chi è Italo Svevo. Si sa che è Italo. Beh, Italo è l'unico, Italo non uscivo solo il treno, per dire. Sì. Questo è colpa del fatto che voi a scuola non avete fatto mai i compiti. E allora ho qualcosa per voi. Ho qui davanti a me il libro di mio nipote che si intitola Non ho fatto i compiti perché, di Davide Cali e Benjamin Schott, pubblicato da Rizzoli. Sentiamo un po' se queste sono anche le scuse che utilizzavate voi per restare così ignoranti. Faccio io la maestra, che più o meno suona così. Insomma, e com'è che non hai fatto i compiti? Non ho fatto i compiti perché un aeroplano carico di scimmie è atterrato in giardino. Un robot impazzito ha distrutto la nostra casa. Gli elfi hanno nascosto tutte le mie matite. Poi sono stato rapito da un UFO. Avevo appena cominciato a farli quando siamo stati attaccati dai vichinghi. Il mio quartiere è stato invaso da un branco di lucertoloni giganti. Una medicina per la tosse che mi aveva prescritto il mio medico ha avuto uno strano effetto su di me. Ho dovuto aiutare mio zio a costruire una sofisticata macchina automatica che faceva i compiti al mio posto, ma quando l'abbiamo finita non ha funzionato. Il mio cane è stato ingoiato da un altro cane, così ho passato il pomeriggio dal veterinario. Ero al funerale del mio gatto. Alcuni detenuti fuggiti dalla prigione locale si sono nascosti nella mia camera e non volevano più uscire. E poi mio zio è stato sfidato a duello da un vicino. Mio nonno e la sua band facevano troppo rumore e non riuscivo a concentrarmi. E te, Fumino, com'è che non hai fatto i compiti? Maestra, non ci crederà, ma avevamo finito la legna per il fuoco, così ho dovuto sacrificare i miei quaderni per riscaldarci. E poi abbiamo trovato un pinguino che si era smarrito e così l'abbiamo riportato al Polo Nord. Guarda, Fumino, che i pinguini vivono al Polo Sud. Ecco, appunto, quando abbiamo capito l'errore, siamo dovuti ripartire, tornare indietro e riportarlo all'altro polo. E poi io e mio fratello siamo stati scritturati, pensi lei, da un circo. Inoltre, la mia famiglia ha trovato il petrolio in giardino. E io allora ho dato le mie matite a Robin Hood. Un famoso regista ha voluto la mia stanza come set del suo nuovo film e degli strani uccelli hanno fatto il nido sul nostro tetto e abbiamo avuto dei problemi con le piante carnivore. E a un certo punto è sparito il tetto di casa e i vicini ci hanno chiesto di aiutarli a cercare i loro armadilli. Il coniglio di mia sorella si è mangiato tutte le mie matite e pure i quaderni. Mio fratello ha avuto di nuovo il suo problemino. E si trasforma, vedi, in un animale. Sì, tipo... Che se ci avessi detto... E un tornado si è portato via tutti i libri. Ecco, perché non ci crede? Primo, perché ho letto anch'io lo stesso libro. Secondo, perché sono io che vi ho dato questo libro. E terzo, perché anch'io non ho mai fatto i compiti in vita mia.